con te ripartirei un po' da dove avevamo lasciato, nel senso si parlava di Stato di Palestina e se ne parla anche tanto nel dibattito pubblico. E ti chiederei a te appunto che cosa, insomma, tu che ruolo vedi a un riconoscimento e a un e alla creazione, insomma, di uno Stato palestinese, e poi anche, insomma, questo come si inserisce all'interno del dibattito internazionale e degli accordi che insomma, del discorso che ha fatto Trump nei 21 punti degli accordi di pace. Grazie mille. La questione dello Stato palestinese, infatti, è una questione molto delicata che oramai sta andando da quando è accaduto tutto ciò, dalle 48, o così conosciuta la Nakba, cioè l'espulsione del popolo palestinese sotto minaccia via della sua terra. Da allora il popolo palestinese è sempre dietro il riconoscimento o dietro il suo diritto di avere uno Stato come qualsiasi altra popolazione. E questo cosa vorrebbe il popolo palestinese oggi? Attualmente sentiamo tante iniziative che vengono, diciamo, dallo spettro della comunità internazionale, parlando, diciamo, del futuro del popolo palestinese, dello Stato palestinese, senza che ci sia neanche un palestinese dentro lì per discutere con questa gente che cos'è lo Stato palestinese, come le vedono loro e che tipo di Stato vorrebbero dare ai palestinesi, come lo immaginano loro o come lo immagina il popolo palestinese. Questo è, cioè, molto importante. E ovviamente l'ultima iniziativa, diciamo, di Trump della settimana scorsa, quando ha fatto questo summit laterale, diciamo, con la Turchia, alcuni presidenti dei paesi arabi e islamici, di cui si è parlato, di 21 punti, come, diciamo, come una guida, un root path, come si dice, per il futuro del popolo palestinese, di cui non si sa niente, non si sa come si sono accordati questi 21 punti, sono stati messi sulla discussione, in discussione, ci sono stati confronti tra, diciamo, gli interessati, o un piano è stato preparato, diciamo, dal governo israeliano, mandato a Trump, e Trump poi l'ha condiviso con questi presidenti di paesi arabi e islamici. Questo è molto importante. Attualmente bisogna aspettare e vedere di che cosa si tratta precisamente, oltre che Tony Blair, diciamo, il criminale di guerra, e ancora si ricorda benissimo cosa è stato fatto insieme alla sua amministrazione, insieme a quella di George Bush figlio, nell'Iraq nel 2003, e quindi sappiamo benissimo come è andata a finire. Leggendo nelle notizie, vedendo sui TV, che Blair sarebbe, diciamo, l'amministratore della striscia di Gaza per il prossimo periodo, già una cosa allarmante, non è una cosa tranquillizzante assolutamente. Sappiamo benissimo come palestinese che Tony Blair o qualsiasi altra persona accetta questo ruolo imposto dall'altro, sicuramente non sarà un Stato, diciamo, al favore del popolo palestinese, o un Stato come naturale, normale, normalissimo, dove sono garantiti, diciamo, i pasi o la necessità basilare di un essere umano per poter vivere, la sicurezza e il mangiare, due cose che oggi sono tutti i Gazawi privi di questi due elementi, la sicurezza anche il cibo. Non vogliamo parlare né di scuole né di ospitali né niente. E quindi vorrei citare una cosa molto importante per capire dove siamo arrivati, da dove viene questa proposta oggi americana. Non si può vedere la situazione attuale nel Medio Oriente, in Palestina, in Gaza soprattutto, senza andare a toccare un attimo, diciamo, la guerra russa-ucraina da una parte, perché questo è importantissimo, partire da là tutta questa storia. E ancora un altro evento, adesso verremo a parlarci un attimino, anche un annetto prima, diciamo, dell'invasione russa per l'Ucraina, o la guerra o il conflitto russo-ucraino, mettiamolo come vogliamo. Questa guerra ha messo, diciamo, un dito sul nervo scoperto europeo per quanto riguarda l'energia. L'Europa all'improvviso, dopo questa guerra, si è trovata al freddo, costi altissimi della corrente, gas, energia di tutti i tipi, e questo, diciamo, una minaccia strategica per che si occupa di strategia e pianificazione strategica, diciamo, a livello europeo, anche ogni Stato per conto suo, cioè una minaccia esistenziale, se le vogliamo vedere in questi termini qua. Perciò una soluzione si doveva trovare assolutamente. Se che torna con la memoria un attimino, soltanto un annetto prima, sto parlando diciamo di settembre 2022, c'era questo summit molto importante dopo il quale è stato lanciato l'iniziativa del corridoio economico indo-europeo. E questo summit nel 2022 è stato a New Delhi, in India, per creare diciamo un corridoio economico parallelo, competitore di quello cinese lanciato 10 anni prima anche. Quello che sta succedendo a Gaza, senza vedere cosa erano diciamo i risultati di quel summit, di che cosa parla, di che cosa si tratta, cosa significa creare un corridoio economico parallelo a quello cinese, che sta oramai, come sappiamo tutti quanti, spanendo in tutto il mondo, perché parte della Cina vorrebbe passare da Asia Est, poi Asia Centrale, Russia, poi l'Europa. Questa è la via principale, poi ovviamente tramite l'Africa, arrivando alle coste del Mediterraneo nel Nord Africa, poi verso l'Europa. Di geopolitica per l'Unione Europea, per gli Stati Uniti, per alcuni stati nel Medio Oriente, questa è una mossa molto aggressiva politicamente, economicamente, diciamo anche per il futuro che minaccia queste realtà qua. Perciò c'è stato il bisogno di lanciare questo corridoio economico indo-europeo che parte dall'India con tutte le merci che viene prodotta nell'India tramite il Medio Oriente, intendo i paesi del Golfo e poi il Levante fino alle coste diciamo est del Mediterraneo, poi della vanno cioè, portano verso l'Europa. Di che cosa o cosa qual è il ruolo e la funzione di questo diciamo corridoio economico? Un corridoio dove c'è prima di tutto porta diciamo materie di primarie dell'India, Golfo, stiamo parlando di petrolio, stiamo parlando di gas, e poi esportarlo verso l'Europa. Ma perché anche segue diciamo i studi, ricerche di giacenti di ricerca, ultimamente sappiamo benissimo che i giacenti più ricchi di gas esistenti oggi sono nell'est Mediterraneo, intendo o significa delle coste egiziane, quelli di Gaza, saliamo su verso il Libano, Siria, anche girando verso ovest sulle coste diciamo mediterranee turche. E quindi qua questa è la zona che dove si trova la soluzione della crisi energetica che ha soppito l'Europa dopo diciamo la guerra russa-ucraina. Quantità industriali, costo di estrazione pari a zero, qualità altissima, e quindi risolverebbe tutto quanto. Però chi guarda o che va a vedere almeno quello che è stato pubblicato di questo corridoio economico e vede che per forza deve passare diciamo dei terreni palestinesi, inclusi quelli occupati di Israele oggi, dove esiste lo Stato israeliano. Però da un pensatore, da uno strategico che mette un piano, ovviamente ci sono anche le valutazioni di rischi che uno può incontrare facendo questo progetto, mega progetto economico. Intendo qua il rischio più importante tra tanti altri sono i movimenti di resistenza esistenti proprio, cioè dallo Yemen all'Iraq, in Siria, in Libano, anche finalmente in Palestina, sia in Cisgiordania, anche nel Striscia di Gaza. Perciò chi ha messo questo piano era molto evidente, senza spazzare via tutti questi movimenti diciamo di resistenza, tale progetto importante per milioni di europei, per tanti paesi nell'Unione Europea, anche per Israele, anche per i paesi del Golfo Arabo, non sarebbe stato fattibile. Perciò c'era il bisogno di togliere tutti questi movimenti di resistenza. Adesso sia i movimenti di resistenza palestinese hanno fatto quello che hanno fatto nel 7 ottobre o meno, comunque questo destino veniva a prescindere, cioè sostiene l'esistenza palestinese. Alcuni dei documenti che sono riusciti a prendere dei basi militari israeliani nel 7 ottobre, progetti interi parlano di questa linea diciamo geopolitica nella nostra zona, cioè una zona deve essere svuotata totalmente di qualsiasi forma di armamenti, deve essere regimi al 100% collaborativi diciamo con lo Stato di Israele per poter portare avanti questo progetto. Perciò Il 7 ottobre c'era una scusa per lo Stato israeliano che ha superato oramai dopo 2 anni, siamo per entrare nel terzo anno di questo genocidio, la scusa perfetta per portare avanti tutto questo progetto economico. Perciò guardiamo oggi, oramai lasciamo perdere e diciamo dichiarazioni di leader zionisti israeliani. Da quando abbiamo sentito per la prima volta la lotta dei figli della luce israeliani contro quelli dei figli dell'oscurità palestinesi, lasciamo perdere i discorsi di Netanyahu a settembre 2023-24. E quando diceva ai soldati israeliani ricordatevi cosa hanno fatto gli amaleci, e quindi questi palestinesi sono i figli degli amalici che vengono e devono essere per ordine divino di Dio uccisi tutti quanti, adulti, uomini, donne, anziani, bambini, anche i loro animali, non bisogna rimanere niente, altrimenti si arrabbierebbe Dio come si è arrabbiato la prima volta quando non abbiamo sterminato tutti gli amaleci. Questa volta le dobbiamo fare per bene. Allora, una persona o un Stato o un governo che dice questo, per non concludere con l'ultima dichiarazione di Smotrich, che è il ministro della finanza israeliana, a dire oggi stiamo discutendo con gli americani come condividere la striscia di Gaza, perché noi semplicemente vediamo nella striscia di Gaza un investimento immobiliare grandissimo. Allora, alla fine questa è la storia qua. Tutto questo macello, tutti questi massacri, tutta questa non importanza, non valore alla vita degli esseri umani che vivono nella striscia di Gaza per arrivare al succo. Un investimento immobiliare. Poi sentiremo e vedremo tutti quanti che oltre all'investimento immobiliare c'è anche quello dell'energia, di cui non parla nessuno attualmente chiaramente, però ci sarà il momento quando viene finita questa faccenda attuale nella striscia di Gaza. Perciò sostengo un Stato o un stratum politico che oggi è al potere in Israele, gente pazza, fascisti, zionisti, macellatori, criminali, puoi dire tutto quello che vuole, che dichiara tutti i giorni, anche Netanyahu l'altro giorno nell'ONU, non ci sarà un Stato palestinese, non lo sarà mai, non c'è stato mai. E poi veniamo a parlare o vengono gli americani a parlarci di un futuro Stato palestinese. A chi ci dobbiamo credere? A Netanyahu che dice, Smotrich, Ben-Gvir, che dicono non ci sarà mai un Stato per i palestinesi su questa terra, tutta quanta nostra. Anzi, pure stanno chiedendo di dismantellare l'ONP, l'Autorità Nazionale Palestinese, di cacciare i palestinesi della Cisgiordania, come dice Smotrich, oltre 1 milione di palestinesi di Cisgiordania hanno pure i passaporti, la cittadinanza giordania, quindi devono andare in Giordania, quelli di Gaza devono andare in Egitto, o potete accoglierli ovunque nel mondo per chi vuole. Non credo da parte dell'israeliano sta parlando veramente di un Stato palestinese adesso, nei termini di Stato palestinese come vogliono i palestinesi, ma un Stato palestinese come lo vuole l'israeliano o come lo vuole Netanyahu, ne possiamo parlare moltissimo. Mi viene, quando sento Netanyahu e la sua ciurma, diciamo, al governo Ben-Gvir e Smotrich, che cosa vorrebbero della popolazione araba in zona per poter vivere in pace con gli israeliani? Semplicemente mi viene in mente sempre una scena che avevo visto in un film, quello ad esempio del Matrix, dove c'è una scena molto intelligente e ci fa vedere che siamo noi per questo sistema, per questo regime mondiale che ci governa oggi. Se ci avete presente, a certo punto quando il protagonista si sveglia e si trova che stava in un'incubatrice e lui era una semplice specie di batteria umana che dà energia al sistema di robot che va avanti. Questo cosa vuole Israele esattamente per la popolazione araba, non soltanto palestinese ma tutti gli altri arabi. Vuoi vivere con israeliani? Questo cosa ha portato anche, che ha letto, diciamo, l'accordo del secolo di Trump è proposto nel suo primo mandato, l'accordo dei secoli, quando vai a leggere punto per punto, articolo per articolo, alla fine tu esci con una conclusione: noi vi promettiamo ricchezza, stabilità, un bel futuro rosa, soldi dappertutto, in cambio dobbiamo essere i cani di guardia dello Stato israeliano. Uno dice, ma perché? cosa c'hanno gli israeliani di diverso da tutte le altre popolazioni, perché gli israeliani sempre devono essere, diciamo, in cima degli interessi, in cima della sicurezza, in cima del potere economico, in cima del potere militare in quella zona lì. Uno si domanda, ma perché? Forse perché non fanno parte di quella zona, forse perché storicamente non sono stati di là, forse perché non si trovano dove c'è un contesto naturale, e sociale, culturale, storico, linguistico, religioso, politico, geografico. Ci sono tantissimi motivi per i quali Israele non si troverà mai al suo agio lì, e il che vuol dire che è sempre stato la punta di un progetto colonialista, oggi neoliberale, nella zona del Medio Oriente, ovviamente, per rubare, sfruttare, diciamo, le risorse di quelli, di quei paesi lì. Perciò, che ci parla oggi di discorsi politici americane, soprattutto anche israeliane, di un futuro o di un stato futuro per i palestinesi, io dovrei e vorrei tantissimo sottolineare di che tipo di stato stiamo parlando. Spiegateci per bene, perché noi sappiamo che tipo di stato vogliamo. Gli israeliani rifiutano tutti i giorni, oramai non se ne parla più, di due stati per due popoli. Un stato unico. Unico come? Che torna e segue e cerca di rintracciare le dichiarazioni di Netanyahu per che tipo di Stato israeliano vuole, l'ha chiesto svariate volte dal suo paese, nelle altre volte in cui è stato nell'ONU, chiede sempre, ha chiesto sempre, diciamo, alla comunità internazionale di riconoscere Israele come uno Stato ebraico. Adesso, un Stato ebraico è un termine molto grave. In poche parole significa chiunque non di fede ebraica non ha il diritto a stare in quella terra lì, quindi se ne deve andare. Stiamo parlando di milioni di palestinesi sotto l'autorità palestinese, stiamo parlando di quasi 2 milioni di cittadini palestinesi, di esseri umani palestinesi con la cittadinanza israeliana, stiamo parlando anche di arabi cristiani, stiamo parlando di tante realtà, non fa parte, diciamo, alla fede ebraica. Perciò questo cosa significa riconoscere lo Stato israeliano come uno Stato ebraico, cioè o sei ebraico, quindi avrai il diritto ad ottenere la cittadinanza di quel paese, venire domani, se oggi tu italiano ottieni la cittadinanza israeliana, domani c'hai il diritto ad avere una casa, vivere in Israele, ottieni la cittadinanza subito, tutto quanto. Questo discorso ci fa capire benissimo che l'israeliano non ha nessuna minima intenzione né di vivere con i palestinesi né di dare un stato ai palestinesi. Perciò lo dicano chiaramente, quindi noi anche dobbiamo smettere e dire e parlare anche di questi due stati. Parliamo di uno stato. L'israeliano è molto chiaro come lo vuole il suo stato. Io propongo, se l'israeliano vuole riconoscere o vuole che Israele viene riconosciuta un stato ebraico, io chiamo di conoscere la Palestina come uno stato democratico, sia per i palestinesi, anche per gli israeliani, anche per gli ebrei, chiunque vuole, però sotto la bandiera di uno stato palestinese per tutti quanti. Tu israeliano vivi sotto la bandiera palestinese in questo stato come tutti gli altri palestinesi. Questo è un discorso giusto, valido, e perché no? Perché no? Perché non è un stato per i palestinesi, tu ebraico vieni e o israeliano viene a vivere in questo stato palestinese. Questa secondo me è una soluzione ancora migliore, se vogliamo parlare. O magari non ci sono oggi gli strumenti né politici né economici per porre una soluzione del genere, però per me, un essere umano palestinese, dopo tutto quello che abbiamo subito dagli israeliani, che ci hanno rubato terra, ci hanno rubato storia, ci hanno rubato futuro, ci hanno rubato la nostra cultura, ci hanno rubato la nostra vita, ci condannano alla vita tutti i giorni, io invito loro, dopo tutto ciò, a venire e vivere in uno stato democratico palestinese, e a loro pure viene riconosciuta la cittadinanza palestinese. Questo secondo me può essere anche una soluzione, perché non discutiamo di questo. Assolutamente, mi sembra in realtà l'unica possibilità plausibile. In realtà si stanno già, diciamo, anche nella stampa mainstream si iniziano a sentire delle voci di persone che dicono continuate a parlare di due stati, no? È una prospettiva totalmente irrealizzabile. Lo sentivo anche banalmente solo durante la rassegna stampa, un'altra rassegna stampa di questa mattina. Rispetto a quello che si diceva, in realtà sono state dette tantissime cose nel l'ultimo intervento del compagno, a partire dal fatto che la guerra sia in primis sempre un grande affare economico per i soliti noti, sono tanti soldi pronti a essere riversati sui territori palestinesi in vista della ricostruzione, ricostruzione, insomma, poi quella che per loro è l'idea di ricostruzione. Su questo segnalo tra l'altro sul Fatto Quotidiano di oggi un'intervista a pagina 4 a Gideon Levi, che è un editorialista di Arez, che proprio faceva notare l'ironia, no, di eventualmente riconoscere un ruolo alla fondazione di Tony Blair, e dice, cioè, volete tornare alle vecchie colonie britanniche. E anche qui, insomma, rendeva evidente, insomma, racconta di come la popolazione israeliana, un po' come si diceva poco fa, assolutamente non vuole una prospettiva di convivenza con la popolazione palestinese. Anche tutte le manifestazioni che si sono viste, anche molte accese, contro il governo israeliano prima del 7 ottobre e poi dopo il 7 ottobre sono state sostanzialmente delle manifestazioni contro il governo di Netanyahu per alcune delle misure relative al sistema giuridico, all'ordinamento giuridico israeliano, e ora agli ostaggi. Per il resto assolutamente non c'è una presa di parola massiva, a parte alcuni gruppi particolarmente radicali o di sinistra in Israele, non c'è una presa di parola contro il genocidio, anche complice, secondo questa intervista, un completo oscuramento complice della stampa israeliana rispetto a quanto sta accadendo in a Gaza nello specifico, ma anche in Cisgiordania. Invece volevo, prima di, insomma, dare spazio a altre telefonate, so che ci sono compagni e compagne che stanno chiamando, volevo solo dare conto del fatto che oggi tutti i giornali in realtà parlano di questo fantomatico piano a 21 punti di cui ancora non si ha piena contezza, però insomma stanno trapelando sostanzialmente dei dettagli rispetto a questi 21 punti. Li prendiamo un attimo da pagina 2 della Stampa, con un servizio di Fabiana Magri e Francesco Semprini. Si prova a ricostruire un po' cosa prevedono questi 21 punti. Li possiamo riassumere in 6 macrotemi principali. Il primo è quella che viene chiamata la deradicalizzazione, scusate, ne parlano il punto 1 e 19 del piano. Si dice che Gaza sarà una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo e che verrà avviato un processo per rieducare la popolazione attraverso il dialogo interreligioso, e questo fa molto sorridere pensare di dover educare la Palestina al dialogo interreligioso quando nel 2018 Israele ha modificato la Costituzione per dire che Israele è uno stato ebraico. Insomma, mi sembra completa fantascienza. Il secondo blocco è il tema degli ostaggi e dei prigionieri palestinesi, quindi i punti 4 e 5 regolano lo scambio. Entro 48 ore Hamas deve rilasciare tutti i rapiti e solo dopo Israele libererà centinaia di ergastolani palestinesi e un migliaio di altri detenuti. Ricordiamo che nel frattempo stiamo parlando di 20 persone nella striscia di Gaza dopo il 7 ottobre, 20 persone israeliane, parliamo di migliaia, 5.000 prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. Terzo blocco, il destino di Hamas: ai membri che accettano la coesistenza pacifica sarà concessa l'amnistia, chi vuole potrà lasciare la striscia attraverso un passaggio sicuro, ma Hamas non avrà alcun ruolo nel governo di Gaza. Quarto blocco, gli aiuti umanitari: la distribuzione di 600 camion al giorno di aiuti sarà coordinata da Nazioni Unite, Mezzaluna Rossa e altre ONG neutrali, non si sa bene, lasciando apparentemente quindi spazio alla Gaza Humanitarian Foundation, che è questa specie di mostro creato da Israele e Stati Uniti insieme. Quinto blocco, nessun esodo forzato: nel punto 12 è scritto che nessuno sarà costretto a lasciare Gaza e che i residenti saranno incoraggiati a rimanere, e questo viene descritto dalla Stampa come il cambio di passo rispetto all'ipotesi del trasferimento dell'intera popolazione palestinese, e questo sarà probabilmente anche il punto principale che farà naufragare questo piano, perché chiaramente Netanyahu, se accetta questa condizione, cade il governo Netanyahu e finita anche la vita politica e probabilmente anche personale di Benjamin Netanyahu, perché appunto, come si diceva prima, diciamo almeno due dei ministri del suo governo non accetteranno mai una popolazione palestinese al fianco di quella israeliana. E poi il ruolo dell'autorità palestinese: per la ANP è previsto un ruolo futuro nella governance di Gaza e nelle riforme necessarie per un possibile percorso verso uno stato palestinese, rinviandone però l'attuazione a dopo la guerra. Questo è diciamo diciamo uno schemino, possiamo dire, di quanto dovrebbe prevedere questo piano in 21 punti. Grazie per questo riassunto, diciamo, di questi 21 punti, che interessante sapere di che cosa si tratta precisamente. Già ti fa ti sollecita tante domande, tante immaginazioni, tante critiche a sentire soltanto una parola tipo di radicalizzazione, diciamo, della striscia di Gaza in generale, cioè andare a sradicare proprio dai propri radici, diciamo, ogni movimento di resistenza che esiste lì. Allora, forse queste gente non capiscono ancora quello, in certo senso, quello che sta succedendo a Gaza. Intendo ovviamente la resistenza popolare, oltre quella militare fino adesso nella striscia di Gaza. Queste gente non lo stanno vedendo, forse non hanno del personale che li sta misurando i parametri popolari, ognuno nel suo paese, come sta reagendo il proprio popolo, in Italia, in America, in ogni paese europeo, nei paesi arabi. Non hanno capito fino adesso, mi sembra, diciamo, la simbologia di quello che sta succedendo a Gaza. E tutti questi punti li vorrei in qualche modo, cioè, legarli uno all'altro, perché mi sembra un piano di dissociare a livello mondiale, diciamo, ogni paese, ogni popolo di ogni paese, diciamo, di quello che sta accadendo a Gaza. Allora, e questa resistenza, se mi posso permettere, chiamarla anche epica, di Gazawi alla striscia di Gaza dopo 2 anni sotto assedio totale. Erano sotto assedio già da 16 anni, però gli ultimi 2 anni, nonostante tutto questo, nonostante i massacri, nonostante la devastazione generale della striscia, cioè stamattina diciamo fino al 5 settembre gli ultimi numeri dicono che l'88% della striscia di Gaza ha subito una devastazione, cioè, completa, e poi rimane un percentuale di devastazione, diciamo, parziali di infrastruttura e altri non abitabili più, e così via. Quindi stiamo parlando, diciamo, del 90-95 il massimo, che la striscia di Gaza oramai è un posto non è adatto all'essere umano per poter vivere, semplicemente. E quindi hanno distrutto un popolo intero, le hanno levato ogni possibilità, diciamo, di vita, nonostante ciò ancora resistono, ancora rifiutano gli ordini dell'esercito israeliano di sfollarsi sempre verso sud. Abbiamo visto recentemente anche un movimento contrario di palestinesi di Gaza che stanno andando verso nord, tornano verso il centro. Sentiamo tantissimi di loro dicono ancora moriamo nelle nostre terre, però non andiamo via. Allora, queste scene qua da 2 anni che tutto il mondo sta guardando, umanamente, parlo umanamente, come fosse un schiaffo che abbiamo ricevuto tutti quanti e ci siamo svegliati, come fosse eravamo addormentati, i nostri interessi erano grandi quanto noi, ecco, insomma. Però quello che sta succedendo, il risveglio mondiale popolare che io sto vedendo e vivendo anche negli ultimi mesi soprattutto, cioè questo è un risveglio, io non so se i paesi si rendano conto, secondo me non si rendono conto. Quello che abbiamo visto, per darvi un esempio, cioè in Italia c'è il 22, quello che abbiamo visto in Spagna, quello che abbiamo visto questa settimana a Bruxelles, questi numeri grandiosi di esseri umani che scendono per strada, perché ognuno è stato toccato a livello umano, ognuno non ce la fa più a vedere esseri umani, bambini macellati, bambini a pezzettini per strada, bambini uccisi per nessun motivo, donne, anziani, alberi, animali, infrastrutture, case, ospedali, scuole. Gli esseri umani oggi sono arrivati a un certo punto, nessuno ce la può fare, nessuno, ognuno di noi dice a se stesso: io non ce la faccio più, ragazzi, ad essere zitto, non ce la faccio più a rimanere fermo e non fare niente. E questa sensazione è arrivata ad un livello allarmante, l'abbiamo visto in Italia il 22, allarmante. Così tanti esseri umani per strada, anche senza il richiamo e l'adesione, diciamo, alle realtà politiche più grosse in Italia, abbiamo visto cosa è successo. Questo è un indizio molto importante. I palestinesi hanno resistito? Sì, ma non solo loro, hanno insegnato e continuano ad insegnare, a dare ispirazione, a dare proprio tanta speranza a tanti popoli in tutti i paesi del mondo. Tutti quanti come fossero solo tornati ribelli di nuovo, rivoluzionari di nuovo, da capo, da zero, con tanta energia, con tantissima voglia di fermare e far finire questo genocidio che oramai nessuno lo vuole fermare. Perciò, per me, questi 21 punti non vanno proprio in qualche modo, diciamo, al radice del problema del popolo palestinese. Sono delle soluzioni temporanee, ma non reali né veri come punti per il futuro del popolo palestinese. Stiamo parlando di ostaggi, ma io sono sicuro di queste poche centinaia di palestinesi che vengono rilasciati nessuno ne parlerà, perché tutta la media del mainstream parla soltanto degli ostaggi israeliani. Nessuno parla di palestinesi, nessuno nomina i 10.000 di palestinesi. Oggi nessuno accetterà più questi discorsi qua. Vuoi parlare di israeliani? Bisogna parlare anche di palestinesi. Vuoi parlare di radicalizzazione dei palestinesi? Ma dobbiamo parlare di radicalizzazione prima degli israeliani anche. L'israeliano per me oggi, il governo, questo governo attuale di Israele, per me una copia di ISIS ebraica con giacca e cravatta. In più con le armi di massa distruzione di ultima generazione. Questi portavano i turbanti, le barbe, andavano a massacrare le persone, questi portavano giacca e cravatta e vanno a macellare i palestinesi davanti a tutti quanti, e nessuno le sta dicendo niente. E quindi parliamo di radicalizzazione per i palestinesi, ma anche per gli israeliani. Ostaggi palestinesi, ben venga, neanche i palestinesi li vogliono tenere, questi ostaggi le stanno dicendo da quando è iniziata la guerra. Facciamo un accordo, liberate i nostri e prendete i vostri, senza fare niente altro. E poi oggi si sa, e abbiamo capito, e si capisce, anche i figli, anche i bambini per strada sanno che Netanyahu è l'unica persona che non vuole fare accordo di pace con i palestinesi per liberare i suoi ostaggi. Netanyahu stesso. E poi il destino di Hamas. Di Hamas può domani finire, signori miei, neanche rimane un membro di Hamas, però l'idea che porta Hamas, che non finirà mai, questo cosa non vogliono capire. La resistenza sia pacifica, quella armata, tutti i tipi di resistenza. Nessuno sarà capace di togliere l'idea della resistenza del cuore, dei cuori, della mente delle persone, sia palestinesi o altri. Loro pensano purtroppo che dopo tutta questa devastazione hanno bruciato la conoscenza di palestinesi, il cuore, l'anima di palestinesi, l'hanno dato una bella lezione che tu palestinese così vedi, una volta, la prossima volta tocchi un israeliano ti succederà questo. E loro pensano così elimineranno diciamo l'idea della resistenza. No, anzi, l'hanno accentuata moltissimo. Sta nascendo una generazione ancora crede di più e più forte che bisogna liberare la Palestina con gli arabi, senza gli arabi, con le gente libera del mondo, donne, uomini dappertutto, o senza di loro. Oggi ci sono generazioni, e c'è una generazione nata, sta crescendo nei paesi arabi, in Europa, ovunque. Il male, l'ingiustizia non le vuole nessuno, assolutamente nessuno. E poi una cosa ridicola, il quinto punto di queste 20 ore che la collega appena nominato, che è nessun esodio forzato. Secondo voi, ditemi voi, io sono un pazzo, non capisco niente, non so niente, non seguiamo niente. Ad una persona l'hai tolto la terra, l'hai eliminato ogni infrastruttura, scuola, ospedale, cliniche, per cure mediche, centri giovanili, terreni di agricoltura, pozzi di acqua, non hai lasciato niente. E poi mi dici nessun esodio forzato? Domani aprite i valici tra l'Egitto e Gaza e vediamo, saranno forzati o non saranno forzati. Tutto quello che è accaduto fino ad adesso, 2 anni di sforzare i popoli palestinesi a lasciare la loro terra. Non è che io dopo aver tolto ogni cosa al popolo palestinese in Gaza dico poi non ci sarà nessun esodio forzato, ma veramente stiamo parlando seriamente? E non per poi finire con il ruolo dell'autorità palestinese. Adesso qua non vorrei toccare proprio ferite, però ci saranno momenti di parlare dell'autorità palestinese, il suo ruolo, il ruolo di Mahmoud Abbas, il ruolo del movimento del Fatah, delle ambasciate palestinesi in Europa e realtà che sono legate a Mahmoud Abbas, l'autorità palestinese, il movimento del Fatah in Europa, ma anche nei paesi arabi, che hanno fatto delle cose vergognose, posizioni politiche vergognose, azioni politiche vergognose, complicità al 100% da parte dell'autorità palestinese con gli israeliani contro il popolo di Gaza. Perché? Perché anche Mahmoud Abbas in primis lui sempre dice: io resistenza armata non la voglio. il futuro paese di palestinesi disarmato. Ma che disarmato? Come disarmato? Io non capisco una situazione politica bollente così, con un nemico vive tra, cioè, nella tua terra così atroce, così sanguigno, così con tanta voglia di sangue. Quindi secondo me una persona non è adatta a guidare il popolo palestinese, né lui né nessun altro membro attuale oggi è un importante ruolo all'interno dell'autorità palestinese, neanche di tutto il movimento del Fatah. Tutte queste due realtà devono uscire fuori, chiedere scusa al popolo palestinese per come l'hanno abbandonato, per come hanno fatto le scelte politiche da quando hanno firmato l'accordo di Oslo nel 93 fino ad oggi. Devono una scusa così grande al popolo palestinese per tutta questa storia, per tutta questa parte della storia. Concludo semplicemente. Quello che è successo a Gaza, la resistenza, la pazienza che hanno dimostrato i Gazawi, ci ha insegnati tutti quanti, ci ha insegnati tutti quanti. Diciamo parole nell'aria, lo vediamo nel 4 ottobre se è vero questa cosa o non è vera.